E lì mi sono accorto che stavo raccontando da un'ora e che mi piaceva. Ci siamo messi a letto e prima di addormentarci lei mi ha guardato e mi ha detto che le sarebbe piaciuto vedermi in scena. E io ho pensato che forse mi stava tornando la voglia di farlo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Lunedì 7 febbraio 2011, sono le 16:06, questa è Radio 24 e io sono qui. Qualche sera fa facevo fatica a prendere sonno. La televisione era accesa su Rai 1. Sullo schermo c'era Gigi Marzullo. Il programma si chiamava Applausi. Ospiti in studio Rodolfo Laganà, Eleonora Giorgi e in collegamento Ivana Monti e Maria Rosaria Omaggio, poi altre di cui non ricordo bene. Tutti quanti insieme parlavano di teatro. Lo spunto di partenza era una frase di Oscar Wilde, che era questa qui: è lo spettatore, non la vita, ciò che il teatro rispecchia. Ora, questo è in ordine sparso quello che è stato detto in quella serata e che io ho sentito con le mie orecchie. 1. Il teatro è uno specchio. 2. Il teatro è contagioso, è una malattia che ti fa ammalare, ti guarisce. 3. Il teatro è vita. 4. Uno spettacolo molto attuale. 5. Non so come mi piacerebbe svegliarmi ed avere un tintoretto sopra la testa, che non so cosa c'entri con il teatro. 6. Uno spettacolo con cui si ride ma anche si riflette. 7. Il teatro è stato il primo e noi siamo ancora qui a parlarne, ma ci rendiamo conto? Di che cosa però? Non l'ho capito. 8. I ragazzini mi chiedono la battuta di Shakespeare per mandare un SMS alla fidanzata. Meraviglioso. 9. Il pubblico, più che con la TV o il cinema, cerca il contatto fisico con i protagonisti. 10. Il palcoscenico è il posto in cui mi sento meglio. E lì in coro, sparsi tutti. Anch'io. 11. Il teatro è fuoco. Ecco, questo è quello che mi ricordo. Quello che non ricordo, temo di averlo rimosso. 800240024 349-238-6666. Spero non l'abbiate vista questa puntata, spero forse non abbiate mai visto questo programma, spero però che siete andati a teatro recentemente, perché mi piacerebbe sentire da voi oggi delle vere e proprie recensioni di spettacoli che avete visto, un po' tipo consigli per la visione della serata. Mettete che qualcuno a casa abbia davanti a sé, oggi è lunedì però, lunedì i teatri non sono chiusi, ha detto per domani, per esempio Tiziano oggi c'ha una faccia, lo vedo storto, non so se si è svegliato male o è lunedì, però Tiz è lunedì per tutti, quindi se tu questa sera non hai niente da fare, 800240024 349-238-6666, perché c'è sempre un bello spettacolo dietro all'angolo. Se l'avete visto e avete voglia di raccontarlo, chiamatemi e fatelo. Cercate di togliervi dalla testa quella cosa che dicono di solito le persone che vanno a teatro e che fanno altro nella vita, che quando gli chiedi com'era lo spettacolo, la prima cosa che dicono è: guarda, non lo so, io non sono un esperto. Non bisogna essere esperti per andare a fare il pubblico in un teatro. È come dire che uno va al mare in Sardegna e gli chiedono com'è stata quest'estate? Ma guarda, io non sono un esperto di mare, però mi è piaciuto. No, mi è piaciuto e basta, così come se mangi un gelato. Ti è piaciuto? Sì o no? Non sono un esperto di gelato. Ok? Una semplice critica, una roba in cui ci sia un briciolo di sinossi, cioè che spettacolo era, e soprattutto qual è, diciamo così, il messaggio, se di messaggio si può parlare. Per lo spettacolo che avete visto. Il tutto perché mi è capitato di tornare a teatro dopo qualche tempo in questo fine settimana e vi racconterò com'è andata. Ho sempre un rapporto abbastanza particolare con gli spettacoli che ci sono in questo periodo in giro per l'Italia, con tutto rispetto per quelli che fanno fatica a fare spettacoli in questo periodo in giro per l'Italia, che poi sono più o meno tutti. Voglio leggervi un paio di recensioni perché le recensioni hanno un linguaggio che è magnifico, un po' perché non si capisce niente di quello che dicono e un po' perché alla fine poi i critici se le scrivono per sé e per gli attori le recensioni. Ad esempio, questo è il finale di una recensione di uno spettacolo che è in questo momento a Milano. Il resto lo fanno gli attori, con la loro passione e la loro forza, che sono le cifre vere di questo spettacolo potente, seguito con tensione partecipe degli spettatori. Gli applausi, è il caso di dirlo, sono davvero liberatori. Perché uno che legge questa critica non capisce se gli applausi sono liberatori perché non vedeva l'ora di andarsene, oppure perché sono liberatori perché la tensione che era stata creata era magnifica. Questo è un altro. Tre voci sono poche per fare un coro, per dare corpo alla stratificata polifonia di Gadda. E c'è, a mio avviso, un sottile problema interpretativo che riguarda in particolar modo un po' tutti gli attori. Ma la lingua di Gadda non può essere parlata, va tradotta in una maschera recitativa, in una costruzione costruzione sonora di cui occorre preservare tutta l'artificiosità. La naturalezza in questo caso rischia forse di appiattirla. 800 24 00 24, 349 238 6666. Cose semplici, come Massimiliano che mi scrive: ho visto Rugantino 20 giorni fa, bellissimo e bravo Brignano a brignanizzare il personaggio. E poi ho visto anche We Will Rock You 2 giorni fa, credo che sia un musical We Will Rock You, divertente e coinvolgente, tutti in piedi a cantare. Certo, alcuni pezzi dei Queen tradotti in italiano non si potevano ascoltare, ma pure tradotti in italiano We Will Rock You, anche in inglese, certo. Tiziano Bonini ha detto una roba orribile contro i Queen che non faremo passare. Comunque ha detto che anche in inglese alcuni sono inascoltabili. Francesca mi scrive: ieri ho visto Il sogno di una notte di mezz'estate di Carlo Cecchi. Mi hanno trascinato perché non mi piacciono i polpettoni, invece mi sono dovuta ricredere. Lo spettacolo è un bello spettacolo. Vedi, cose semplici proprio. Poche recensioni. Ivan, eccolo qua. E Ivan ci casca anche lui. Praticamente sono un neofito in materia. Cioè, uno dovesse fare un corso di laurea per andare a vedere uno spettacolo. Sono stato convinto dalla mia ragazza ad assistere allo spettacolo L'Oro di Napoli. Io ammetto, ero attratto dal fatto che ci fosse Luisa Ranieri in locandina. Un po' incuriosito e desideroso di passare una serata diversa. Beh, spettacolo carino, a tratti divertente, con qualche spunto di riflessione alla napoletana, che per un attimo ti lascia pensare e un attimo dopo ti ci fa ridere su, anche se si parla di tragedia. Grande Ivan. 800 24 00 24, 349 238 6666. Se avete visto di recente uno spettacolo e volete parlarne, perché non serve essere esperti per essere degli spettatori. Le ultime settimane sono state particolarmente difficili, come vi ho raccontato nei giorni scorsi, quindi tornare a quando avevi 13 anni, a quando la vita ti aveva scrollato di dosso le tue convinzioni di invulnerabilità, è stato abbastanza provante. E quindi questo fine settimana mi sono dedicato a godermi questi giorni, quelli che stavo vivendo. E devo dire che Natalia è stata magnifica. Sabato siamo andati al mercato, abbiamo preso frutta e verdura fresca, abbiamo mangiato come dei maiali, dormito tutto il pomeriggio e poi la sera siamo andati a teatro. Perché andare a teatro nella mia testa rimane ancora una cosa bella da fare. Peccato che poi mi debba scontrare con la realtà, che è quella del teatro museale. Lo spettacolo si trova in un teatro che sta in una zona di Milano piena di caffè e ristoranti giapponesi. La compagnia è una compagnia storica della città e c'era grande attesa per lo spettacolo. E in più uno degli attori era un amico di Natalie. E già questa cosa non me lo rendeva particolarmente simpatico, né lui né lo spettacolo. Lo spettacolo è Riccardo III di William Shakespeare. Racconta l'ascesa al potere di Riccardo, un tizio storpio e gobbo che uccide amici e parenti per prendersi la corona e morire gridando un cavallo, il mio regno per un cavallo. Lo so, è detta male, ma in soldoni la storia è questa qui. L'hanno fatto in tanti. L'ha fatto Al Pacino facendo finta di provarlo, l'ha fatto Ian McKellen facendo finta di essere un nazista, e poi un sacco di altri attori, bravi e meno bravi, nei teatri di tutto il mondo. Appena avevo finito la scuola di teatro, io ho fatto un provino per entrare proprio nel cast di un Riccardo III. Il provino non andò bene, anzi andò malissimo. E da allora non ci associo dei bei ricordi a quello spettacolo. Sono passati 15 anni da quel giorno e ancora i teatri sono pieni di Riccardo III, di Amleto, di Romeo e Giulietta, di Sogno di una notte di mezz'estate e qualsiasi cosa Shakespeare abbia scritto su un pezzo di carta. Credo che siano stati messi in scena persino i suoi appunti. Sono cose scritte attorno alla metà, alla fine del 1500, quindi sono più o meno 400 anni che la gente va a sentire la stessa storia. E ogni volta mi ripeto che devono proprio essere belle queste storie per interessare persone diverse, in epoche diverse. Ma forse no. Forse alla fine, che sia il 1500 o il 2011, gli uomini sono uomini e le donne sono donne. E le cose che le interessano sono sempre quelle. Sesso, soldi e potere. Che poi alla fine sono la stessa cosa. Sabato sera noi ci siamo vestiti bene, abbiamo preso il tram e siamo andati a teatro. Io non capisco mai chi siano veramente le persone che vanno a teatro. Ma soprattutto non mi spiego il perché ci vadano. Cioè, non che penso che sia assurdo andare a teatro, no, al contrario. È proprio per questo che non mi spiego il motivo per cui le persone prendano l'auto o il taxi o il tram e vadano a sedersi su quei seggiolini al buio. Quando io e Natalie siamo entrati in sala, la stessa domanda me la sono posta pure io. Che ci siamo venuti a fare? Ci siamo seduti nei seggiolini di velluto rosso, le luci si sono abbassate e siamo rimasti al buio. Poi il sipario si è aperto ed è apparso un tizio basso, gobbo, che ha attaccato a parlare di un inverno felice che si era tramutato in una torre d'estate, grazie al radioso sole di York. Ora l'inverno del nostro scontento si è mutato in luminosa estate. Grazie a questo sole di York. E tutte le nubi che incombevano minacciose sulla nostra casata sono ora sepolte nel seno profondo dell'oceano. She said, I know you and you cannot sing. I said, that's nothing, you should hear me play piano. We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things. But when you're tied to your mother's apron, no one talks about. E poi dopo 3 ore si riaccendono le luci e siamo in teatro. Le luci si accendono mentre gli attori sono ancora sul palco a prendere gli applausi. Se ne stanno uno a fianco all'altro, mano nella mano, tenendo le braccia sollevate sopra la testa. Si godono i complimenti per il loro lavoro. Secondo me è bella questa cosa, questa usanza, quella di applaudire, intendo. È un modo rumoroso per dire complimenti, bel lavoro. Forse bisognerebbe inserirli in tutte le professioni. Non gli applausi, dico, ma dei modi per dire grazie alle persone che hanno lavorato per noi. Al portalettere che consegna la posta, al professore che finisce la sua lezione, anche al vigile urbano che in strada si prende solo dei gran vaffanculo. In fondo meriterebbe dei complimenti per il lavoro che svolge. Intanto la signora a fianco a me ha dormito dall'inizio alla fine. Ora è sveglio e applaude pure lui. Io penso che forse poteva starsene a casa. Poi mi sporgo e mi accorgo che la moglie, in pelliccia, accanto a lui, ha un piglio talmente arcigno che anche a costo di venirci carponi pure io sarei venuto a teatro se lei l'avesse voluto. Mi giro e guardo Natalie che applaude svogliata e chiedo se le è piaciuto. Lei mi dice di no. Le chiedo perché, lei mi dice che me lo racconta dopo, perché adesso deve pensare in fretta a qualcosa da dire ai suoi amici nel camerino. Io non capisco, però mi alzo insieme a lei e passando da una porta dietro le tende raggiungiamo il retropalco. Arriviamo dal suo amico e lei con il suo splendido sorriso inizia a dirgli cose tipo guarda, la scena in cui ti siedi e accendi la sigaretta lì è splendida, oppure il tuo monologo finale, perfetto. Ma anche cose tipo quando entri in scena il pubblico guarda solo te. Intanto arriva altra gente per fare complimenti, noi ci defiliamo e io le chiedo se allora lo spettacolo le sia piaciuto. Lei mi dice di no, che è una boiata coi fiocchi. Ci congediamo dal suo amico che si deve cambiare, è tutto sudato e vuole uscire a prendersi i complimenti di tutti. Ci invita ad una cena di compagnia, ma Natalie ha la prontezza di dirgli che abbiamo un altro impegno. Gli stringo la mano e lui, prima di salutarmi, mi fa la domanda che secondo me nessun attore dovrebbe fare. Ti è piaciuto lo spettacolo? Mi chiede. Io sorrido, Natalie sorride, lui anche, poi gli rispondo: guarda, per niente. Usciti che ridevamo come due imbecilli. Abbiamo preso un tram, quello che faceva il giro lungo, che Milano di notte è bella, fa meno paura. Abbiamo parlato dello spettacolo, di come sembrasse una roba fuori dal mondo, fuori dal normale, ma come ad entrambi quella cosa lì, quella del sedersi in una sala che diventava buia, dove delle persone vere facevano finta di fare delle cose vere mentre altre le stavano a guardare, ecco, quella cosa lì ci piaceva. Abbiamo parlato un po' dei lavori che avevo fatto quando io facevo quel lavoro lì, e ho iniziato a raccontare dei primi spettacoli, delle prove, delle tournée. Intanto siamo arrivati a casa e ho continuato a raccontarle, del lavoro sul testo, sul personaggio, del palco, del pubblico, delle giornate vuote e delle sere che non finiscono più, della noia e dei teatri di provincia, quelli che sanno di polvere. Mi sono accorto che stavo raccontando da un'ora e che quella cosa lì mi piaceva. Ci siamo messi a letto e prima di addormentarci lei mi ha guardato e mi ha detto che le sarebbe piaciuto vedermi in scena. E io ho pensato che forse, mi stava tornando la voglia di farlo. Scusa, ma non capisco la tua critica alla trasmissione che hai menzionato. Le frasi che hai citato non mi sembrano delle idiozie, ma soprattutto mi sembrano le impressioni di alcune persone e credo debbano essere rispettate. Va detto comunque che non sono né un esperto, scusa, né un appassionato di teatro. Tu mi sembri piuttosto un saputello arrogante che vuole fare l'originale a tutti i costi, disprezzando ciò che non combacia con la propria idea. Sii più umile, più semplice e sarai più simpatico. Ciao Andrea. Ciao Andrea, prova a rileggerti giusto un paio di quelle frasi, eh? Concentrati un secondo. Mi togli un attimo la base perché magari così le sente meglio. Il teatro è uno specchio, il teatro è contagioso, è una malattia che ti fa ammalare e ti guarisce. Il teatro è la vita, è uno spettacolo molto attuale. Non sa come mi piacerebbe svegliarmi ed avere un tintoretto sopra la testa, che rimane la mia preferita, e poi uno spettacolo con cui si ride, ma anche si riflette. Andrea, se per te queste frasi sembrano tutte a posto, va bene così. Adoro il teatro perché mia moglie ci va con mia suocera e così io e i miei figli andiamo a farci una pizza. Ho visto un musical, Divina Commedia, emozionante. Musica no comment. Scusami, se è emozionante sarà perché la musica, di solito è la musica che porta emozione. Ho visto invece Sogno di notte e mezz'estate, che non avevo mai letto, grandioso, da una compagnia locale. Mi chiedo... puntini puntini, non è, il messaggio non è concluso, forse è perso da qualche altra parte. Prima della borsa però andiamo a sentire Marco, che ha visto, ti pareva, Shakespeare. Pronto Marco? Sì, pronto, ciao a tutti. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Senti, dimmi lo spettacolo, che spettacolo è? È una compagnia amatoriale, Pene d'amor perduto. La cosa che mi ha un attimino, diciamo, incuriosito tantissimo, che il titolo era Pene d'amor perduto in 3D al teatro. Allora, e che cosa aveva per essere in 3D? Nel senso che erano lì? No, infatti no, che erano lì, cioè la cosa in 3D c'era, ma è una cosa un po', diciamo, una cosa interiore che poi loro trasmettevano, ma posso dire soltanto che non ci vado spesso in teatro, però quella volta lì mi ha incuriosito questa cosa e devo dire che sono stati stupendi. Marco, scusami, mi spieghi un po' meglio questa cosa della 3D che avevano loro interiore? Sì, allora... Il proprio parola era, avevano creato una scenografia tipo circo, proprio sì, un tendone da circo su un palcoscenico piccolissimo, tra l'altro, sì, no? Quindi una cosa già ad effetto stupenda. Certo. E poi alla fine c'erano questi attori che, in poche parole, portavano tutto su un monologo, nel 3D di quello che noi magari vogliamo vedere, magari, e non vediamo. C'è una cosa un po' strana che alla fine mi ha lasciato tantissimo. E devo dire che sono stati bravi. Se questo è il teatro, ben venga. Cioè, stato molto. Senti Marco, molto. Ma quindi chiaramente non distribuono gli occhialini 3D, era più una cosa sì, di... Sì, no, loro uscivano con questi occhialini 3D. Ah, loro uscivano con gli occhialini 3D. Sì, sì, 3D. E vedevano loro in 3D, in poche parole, erano loro che vedevano in 3D, una cosa... Senti, dimmi la reazione del pubblico, entusiasta. La reazione del pubblico, devo dire che all'inizio un po' i primi 5 minuti così, ma dopo era una cosa divertentissima, perché loro... Durata dello spettacolo, Marco? Un'ora e un quarto. Oh, bene, questo già mi sembra una roba a vantaggio dello spettacolo, perché sopra l'ora e un quarto, l'ora e mezza, cominciamo ad accusare dei problemi. Dimmi qual è stato invece uno spettacolo prima di questo che non ti è piaciuto, Marco, che ti ricordi, anche anni fa, alle scuole. Allora, devo dire la verità. Vai, vai. Ho rivisto lo stesso spettacolo da una compagnia teatrale di Milano, cioè, ma fatto in un modo proprio proprio fedelissimo, sì, proprio al discorso, che c'è stato un film che non mi ricordo neanche chi è il regista, sì, e devo dire che non mi ha lasciato nulla rispetto a questo. Ho capito, quindi era sempre sei un abbonato a Pene d'amor perdute, sì, di Shakespeare. E infatti mi ha incuriosito tantissimo questo 3D, che posso andare a rivederlo. Marco, devo salutarti, dimmi solo che lavoro fai prima di salutarmi. Io faccio un artigiano. Che cioè, che tipo? Legname. Benissimo. Marco, grazie mille. Adesso ci ascoltiamo la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. La foto di oggi è una bella foto. È una foto d'azione, finalmente, dopo un sacco di foto di paesaggi. Il protagonista della foto è un uomo, un ragazzo, con pochi capelli in testa, magro direi. Mangia un po' di più. Ha su un maglione di quelli che si usano in casa quando si fanno i lavori e sta con un cacciavite avvitando una vite in un parallelepipedo di legno con un buco in mezzo. Intorno a sé c'è la casa, una casa direi, è appoggiata a un tavolo che potrebbe essere una sala da pranzo dove si mangia, ma si fa anche altro. Infatti appoggiati a dei barattoli, barattolini che non riesco a capire se contengono cibo oppure sono quei barattoli che contenevano cibo e adesso contengono viti, chiodi o quelle cose lì, strumenti di lavoro. Alle sue spalle c'è un divano, c'è una chitarra classica, e ha una bella parete pitturata di arancione, proprio un pugno molto molto forte negli occhi, che per di più è anche spugnata. Non ha una gran passione per le pareti spugnate, dipinte a spugna, però lui sta costruendo un parallelepipedo in legno che è uno strumento musicale ed è un cajon. Sono Alessandro Ciauri, 37 anni e vivo a Piasco, in Valle Varaita. Cose iniziate, alcune finite ed altre eternamente incompiute. Oggi, in questa comune serata d'inverno, finisco il mio cajon. Io sono qui. Vive a Piasco, ha detto, in Valle... Non ho capito esattamente dove, però Alessandro, chiunque sappia che cos'è Piasco e dov'è Valle Caraina, mi pare che abbia detto. Credo che sia Piemonte, se non sbaglio è Piemonte, forse dalle parti di Cuneo. 349-238-6666 per chi lo sapesse. Grazie ad Alessandro, andate a vedere la sua foto che è bella. Cioè, diciamo, non è stilisticamente bella, però è una bella foto. Sta facendo qualcosa Alessandro in questa foto. Andate a vederla sul sito radio24.it, alla pagina di Io sono qui. Invece continuiamo a parlare di spettacoli. Sono andato a vedere Pirandello, lo iettatore, l'attore cade e si rompe il naso in scena, gelo in sala. Io e mio fratello, con scarsa propensione teatrale, abbiamo portato i figli, i nipoti, amici dei figli e nipoti a vedere una versione teatrale di Biancaneve e i sette nani, perché un sette nano è, anzi era, un amico. Abbiamo riso come dei matti con i doppi sensi e altre cose poco edificanti. Ci hanno cacciato fuori, i nostri bambini si sono vergognati di avere dei genitori deficienti. Gianni mi dice: non vado né al cinema né a teatro perché non si può fumare. E poi ancora, ho visto tempo fa il Vaillant di e con Marco Paolini e ho pianto. Marco Paolini fa un po' discorso a sé, diciamo, per quando si parla di teatro, perché Marco Paolini non è già quasi più o non è già quasi più solo un attore di teatro, e lo si veda dalle cose che fa. Andiamo però subito, andiamo da Giuseppe da Roma. Pronto Giuseppe? Pronto, mi senti? Ciao Matteo. Io ti sento bene, anche perché mi sembra di capire che tu sei un attore. Sì. Allora, io in mezz'ora di trasmissione non ho ancora capito se stai parlando bene o male del teatro. Guarda Giuseppe, questa è una bella domanda, perché me lo domando ancora io che rapporto ho con il teatro dopo averlo un po' fatto e andare a guardarlo. Tu che spettacoli fai? Io un po' di tutto, ma Shakespeare è la mia specialità, visto che insomma sono anche laureato in storia del teatro inglese, sono un traduttore di Shakespeare, sono un drammaturgo, quindi insomma... Come ti chiami? Giuseppe, dici come ti chiami? Giuseppe Renzo. Senti, tu hai fatto la scuola di Gassman, leggo qui. La bottega qui. Di Gassman nel 95, 90, mio Dio, quanto tempo fa. Quando ancora, 96. Ma quando Gassman ci insegnava o solo la gestiva? No, io l'ho visto solo un paio di volte, è arrivato lì e ha fatto bravo e se n'è andato. Scusami, com'è che ha fatto? Tu sei stato bravo. Senti, dimmi che stai facendo, sei in replica in questi giorni? Sì, oggi è giorno di pausa, come hai detto prima, sì. E sto andando a fare un provino / incontro / conosciamoci bene. Con chi? Sono in scena a Roma con uno spettacolo itinerante che si chiama La Caromana di Shakespeare, Le Ombre, guarda caso, che è un popurrì itinerante di alcuni pezzi più famosi di Shakespeare. Ma itinerante dove, scusami? All'interno del teatro? Teatro San Paolo, in giro per il teatro, sì, li portiamo un po' dovunque e gli recitiamo accanto, molto carino, dicono che si emozionano molto a sentirci così vicini. Senti Giuseppe, invece dimmi una cosa, tu che lo fai da quanto fai teatro? 15-20 anni? 20 anni. 20 anni. Tu hai capito chi è il pubblico del teatro? Sì, l'ho capito e ogni volta che penso di averlo capito poi alla fine mi sorprende perché non è esattamente come avevo capito, però... Allora, ti dico subito, tre quarti sono donne. Ok. Gli uomini che vedi sono trascinati. Guarda, credo che i tre quarti delle donne siano quelli che mandano avanti l'industria culturale di questo paese, tra teatro, libri, cinema, sono loro, sono quelle che qualcuno con cattiveria ha definito le fidanzate tristi, cioè quelle che non sono soddisfatte del rapporto con un fidanzato e comprano i libri e vanno a teatro. Giuseppe, ti ringrazio e ti faccio in bocca al lupo per il tuo provino. Grazie, che stai andando a fare. Ti faccio in bocca al lupo per la trasmissione che seguo sempre. Grazie, ciao Giuseppe, buona giornata. Ciao. Andiamo da Chiara, perché Chiara ha scritto: non avevo mai scritto un sms o una trasmissione, però ho visto due volte, sabato, domenica e lunedì. Pronto Chiara? Sì, ciao. Ciao, grazie per essere qui. Grazie. Senti, sabato, domenica e lunedì è lo spettacolo, forse è lo spettacolo di cui si parla in questi ultimi due anni di teatro in Italia, e il regista è Tony Servillo. Sì, che è anche un attore che fa anche lo spettacolo. Sì. Dimmi che cosa ti è piaciuto e perché. Un motivo per andare a vederlo e un motivo per non andare a vederlo. Guarda, motivi per non andare a vederlo, faccio fatica a trovarli perché è stata veramente un'esperienza meravigliosa, tanto che io poi sono tornata a rivederlo e poi l'ho anche scaricato da internet per rivedermelo a casa. Vabbè, allora, ma era una cosa personale allora, Chiara, c'era chiaramente qualcosa che... No, guarda, perché secondo me veramente lui è meraviglioso e il motivo per andare a vederlo è che ti catapulta in un mondo familiare che ti fa proprio sentire delle emozioni, delle sensazioni... Cioè, ci sembra proprio di essere lì con loro. Chiara, senti, voglio farti un, visto che si parlava di cose personali, tu sei fidanzata? Convivo, ho un compagno. Ok. È stato il primo spettacolo che abbiamo visto insieme, quindi può essere che qualcosina ci sia di persona, però insomma siamo andati insieme a vederlo ed è stato per entrambi, questo è stato come dire, il report dello spettacolo è stato questo. Chiara, grazie mille, ti auguro una buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Ciao, a Catania tournée Don Chisciotte con Franco Branciaroli. Beh ragazzi, qua si parla dei mostri sacri, one man cabaret di alta qualità con somma di chicche, arcobaleno di voce, luce, scene e luci imperdibili. Di solito quando si parla della scenografia delle luci è perché ci si è distratti dallo spettacolo. Andiamo, l'ultima telefonata, andiamo a Modena da Jerry. Pronto Jerry? Ciao. Ma Jerry è il tuo nome? È veramente il mio nome è un po' più complesso, mi chiamo Gerlando. Gerlando? Però mi hanno sempre chiamato Jerry da quando avevo 2 giorni. E com'è questo gerundio? Che cosa significa Gerlando? No, Gerlando non è un gerundio del verbo gerlare, che potrebbe essere portare... con una gerla. Una gerla, certo, invece sì. No. E invece no, vuol dire? San Gerlando è il patrono di Agrigento. Ah. Esiste. Bene, bene, bene. Il 5 febbraio. Figurati, Gerlando, ti credo e come. Raccontami dello spettacolo che hai visto tu, perché proprio mi pareva stesse parlando di Paolini, giusto? Sì, esatto. Guarda, io ho avuto la possibilità di vedere 2 spettacoli diversi nell'arco di 10 giorni. Mm-hmm. Il 26 era il giorno della memoria e ho avuto la fortuna e il privilegio di vederlo dal vivo, è poi stato trasmesso in diretta televisiva al teatro La Cucina della cooperativa Olinda a Milano. Jerry, scusami, dimmi, perché purtroppo non ho tantissimo tempo, dimmi quando pensi a Marco Paolini che cos'è che trovi così imprescindibile nell'andare a vederlo, nel doverlo andare a vedere? No, non è doverlo andare a vedere, è stata una coincidenza. Ieri l'ho visto a Modena con Itis Galileo e mi colpisce la sua capacità di affabulare, di parlare per 2 ore rotte consecutive mantenendo un'elevatissima attenzione da parte del pubblico. Jerry, secondo te finisci pure, che è unica? Sì, non è unica, ce ne sono degli altri, di attori molto bravi, però lui veramente... secondo me è imperdibile, impagabile. Jerry, ti ringrazio molto, ma soprattutto per avermi confessato col tuo nome è Gerlando. Esatto. Posso dire l'ultimissima cosa a proposito di teatro? Io vado spesso al teatro e anche al cinema. Però vedere, a proposito di quello che dicevi, l'applauso finale, sì, e capire il momento in cui l'attore percepisce di aver fatto un bel lavoro è impagabile, perché glielo leggi negli occhi. Jerry, grazie mille, buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao. Il fu Mattia Pascal, versione teatrale di Tato Russo, a Lodi, alle Vigne, sublime e intenso. Ti senti sul palco dentro lo spettacolo. Elena, veniamo invece ad un'altra storia che non so se è sublime o intensa, ma è la storia di Luca che continua a scrivermi e questo è il capitolo 3 della sua storia. Da qualche mese mi sono iscritto a quelle chat per incontri. Funziona così, ci si scrive e si aspetta. Metti una bella foto e qualcuno guardandola ti chiamerà. Venerdì sera, facendo uno strappo alla regola, io non esco mai di venerdì. Anzi, veramente non esco mai nemmeno le altre sere. Comunque, venerdì ho uno di questi incontri al buio. Ci accordiamo per vederci in centro tramite messaggi al cellulare. Io arrivo all'appuntamento con qualche minuto di anticipo. Primo perché sono curioso e secondo perché la puntualità non guasta mai. Mi metto dietro a una colonna della piazza dove abbiamo fissato l'incontro. Chattando lei mi ha detto che ha qualche anno più di me. Una donna parcheggia, scende. È affascinante. Ha su un lungo cappotto nero, i tacchi, i capelli corti. Che fortuna. Il cuore batte forte e la mente spera che sia lei la sconosciuta. Si avvicina, le squilla il telefono. Io sono già dentro al bar e tu? Niente, non è lei. Peccato. Entro nel bar, sono un po' scoraggiato. Seduta a un tavolo, sola, c'è una donna minuta, elegante, semplice. Mi presento e mi siedo. Abbozza un sorriso di circostanza. Non credo di essere il suo tipo. Capisco che nemmeno lei lo è per me. Ordiniamo da bere, la conversazione si protrae per un'ora, si parla del più e del meno. Nessuna notizia troppo personale. Anche questo è un segno. Ad un tratto mi fa un cenno, vuole andarsene. La musica è troppo alta per lei, vuole uscire. La prendo come una liberazione. Fuori dal bar le chiedo se vuole fare quattro passi, più per cavalleria e buona educazione. Mi dice di no, vuole andare a casa. Ci salutiamo velocemente. Come è arrivata, sparisce nella nebbia che anche in centro ha fatto la sua comparsa. Io mi giro e spero di rivedere la donna coi tacchi. Ecco, io sono qui. Luca. Grazie a Luca e alla sua storia, grazie a Laura Faggina, Tiziano Bonini e Roberto Scaltritti. Gli ultimi due messaggi a proposito di dov'è Piasco. Piasco è in Val Varaita, provincia di Cuneo. C'è anche la fabbrica di arpe e il museo dell'arpa. E poi a proposito delle fidanzate tristi che vanno a teatro, Davide mi scrive: mia moglie non va a teatro e odia leggere, vuol dire che sono un vero maschio. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?